Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo tornati dopo le vacanze di Pasqua, ahimè sempre troppo brevi, e torniamo però a parlare di cose importanti. Lo facciamo con il collegamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, con noi il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con te andiamo a toccare l'argomento che già qualche giorno prima di questo periodo di festa, come dire, ha smorzato gli animi, perché la notizia è questa: il tasso di disoccupazione è risalito nel mese di febbraio 2015. Sì, purtroppo a certificarlo questo dato ci ha pensato l'Istat, il quale è andato un po' contro tendenza rispetto a quello che era l'ottimismo diffuso qualche giorno fa dai nostri governanti su non tanto la ripresa ma anche sulla creazione di nuovi posti di lavoro. E purtroppo il dato che è emerso è che la disoccupazione è salita al 12,7%. Però dobbiamo dire che i dati ISTAT parlano chiaro: si è registrato sia un calo del numero di occupati rispetto al mese precedente e un aumento del tasso di disoccupazione, addirittura aumentato di 0,1 punti percentuali su gennaio, di 0,2 punti su febbraio 2014, con 23.000 persone in più rispetto al mese precedente che cercano lavoro senza trovarlo, 67.000 rispetto ai 12 mesi precedenti. I problemi ci sono tutti, ecco. Purtroppo sì, e soprattutto questo problema riguarda in particolar modo anche i giovani, in quanto il tasso di disoccupazione giovanile è salito di 1,3 punti percentuali su mese e di 0,1 punti su anno. Quindi ci attestiamo a un dato totale del 42,6%. Oltretutto risulta allarmante anche il dato dei giovani occupati, che è diminuito del 3,8% sull'ultimo mese, e cioè 34.000 unità. Quindi un tasso di occupazione giovanile molto piccolo rispetto a quello che è un insieme generale, soprattutto della popolazione giovanile, e scopriamo che addirittura i giovani sono anche quella categoria di persone maggiormente scoraggiati rispetto a coloro che stanno cercando lavoro. Quindi la riforma del lavoro fatta dal governo forse ha bisogno di un po' di tempo perché prenda piede. So che insomma sono magari molte le aziende che hanno cambiato il loro tipo di assunzione, proprio passando al lavoro a tempo indeterminato, ma di fatto erano persone che lavoravano prima con un contratto e lavorano adesso con un altro contratto. Grandi nuove assunzioni non ce ne sono. Ma diciamo innanzitutto che le cose come stanno, ovvero gli incentivi per le nuove assunzioni ci sono fino ad esaurimento, ci sono per adesso solo per quest'anno, fin tanto che appunto resteranno ancora disponibili, e riguarda quelle aziende che andranno ad assumere a tempo indeterminato, di cui godranno di incentivi fiscali per i primi 3 anni. Bisogna dire che certamente iniziative volte a incentivare l'occupazione a tempo indeterminato sono delle iniziative sempre molto importanti, però riteniamo che non è questa la direzione corretta per incentivare l'occupazione, in quanto sappiamo bene che dopo 3 anni si ripresentano dei problemi e certamente cambiando i costi possono anche andare a rivedere quelle che sono delle strategie che le aziende in questo periodo vogliono o intendono prefissarsi. Oggi il problema di base è che il costo del lavoro in Italia è molto molto caro, e quando si parla del costo del lavoro non bisogna fare l'errore di considerare gli stipendi, ma di considerare tutte quelle tassazioni che ruotano attorno allo stipendio e che vanno ad intaccare quello che è da una parte il netto del lavoratore e dall'altra parte il costo che diventa fisso per un'azienda. Per cui la prova dei 9, l'Istat ha detto che sostanzialmente quello che è stato un ottimismo annunciato dai nostri amministratori su quello che è una ripresa, una fiducia dei consumi e addirittura una revisione che noi diciamo anche sovrastimata di quello che potrà essere il prossimo dato che diffonderanno il governo sulla fiducia e sulle entrate, certamente sarà un dato che dovremo rivedere con molta cautela e interpretarlo, secondo il nostro avviso, anche in maniera diversa, se non altro almeno ridimensionarlo. Speravo che dopo Pasqua il collegamento con l'Adico mi portasse un po' più gioia, ma insomma ce ne facciamo una ragione. Assolutamente importante comunque andare a come dire, spulciare i dati che l'Istat ci ha fornito per avere il quadro completo di questa situazione, che speriamo veramente possa cambiare. Grazie al presidente Carlo Garofolini dell'Adico, prossimo appuntamento tra un paio di giorni. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.